chiamare avanti. Chi è che chiama avanti sul canale 10, K? Chi è? Oh, attenzione, indigeno, ascolti Antonio, K. Hola. Attenzione, su canale 10 per un controllo, per cortesia. Ciao Luca. Ciao Carlo, come sto uscendo? Aspetta che avevo la musica attaccata, fai un altro passaggio per cortesia. Ok, un passaggio per controllo, stazione Flucky, ma in barra mobile, operatore di da piazzale City. Qua mi stai arrivando, 9 pieno, però ovviamente la mia antenna già lo sai com'è, 9 pieno, radio 4, un po' bacina di radio qua mi stai arrivando, però il segnale è buono. Allora, break. Avanti il break. E capo, Antonio, sono. No, qua un po' più basso a Limadella, la pedoncia. 6-7, sì. Sto uscendo con un apparecchietto che sembra una scatola, una scatola di riso, piccolino, in barra mobile con l'antennino che usavo prima, che mi ero l'ho voluto lasciare, sto per entrare alla dinamo e l'ho voluto provare qua per vedere se si può andare. Kappa, tu mi senti bene? Sì, ti sento bene di radio, ma non ti posso dare il responso di distanziato perché questa radiolina non ha lo speaker. Kappa, dai. Buonasera. Io volevo Carlo. Tanto 9 più 20 con picchi positivi qua, radio super 5. No, va bene, dai. Va benissimo qua. Stai spingendo? No, negativo. Ho detto che va bene. Sì, cavolo, qua stai arrivando bene. Io dopo che se ne ho voglia ti cambio l'antenna perché c'ho il sole e infatti stavo attaccando, ho detto che c'è la tutto a posto, stazionarie sempre alte e così vedo se riesco ad abbassarle. Alte quanto, Carlo? Ce li ho appena sopra il 2, capito, ma è il tipo d'antenna. Va bene, dai, mi metto a fare adesso e ci sentiamo più tardi e spero di darvi un controllo migliore se mi riesce a concludere tutto. I pezzi ce li ho tutti pronti, io penso nel giro di una mezz'oretta monto l'antenna e ripiazzo l'altra e vediamo un po' come va. Sicuramente ci ha mandato la radio alla notte, sicuro. Sicuro che cambia dal giorno alla notte. E speriamo, dai. Va bene, Antonio e Luca, io vi lascio che mi metto a fare, così poi magari se ci siete anche più tardi avrò modo di fare qualche controllo. Bene, Neda, dai, che ho tutto pronto qua e adesso attacco. Vai tranquillo. Io mi sono passato a fare segni dove sono passato. Poi entro la dinamo, penso che la partita alle 4:30, uscirò alle 6:30 e riaccendo andando a casa, così tutto per trovare. A più tardi, ciao Antonio, ciao Marco. Ciao Luca, ciao Antonio, a più tardi. Ciao, vai tranquillo, ti lascio fare. Sono convinto che cambia dal giorno alla notte, sicuro. Ehi K, dai, dopo ti faccio sapere. Ehi, avvisami quando è pronta. Ma sarei venuto anche a darti una mano, sarei venuto, ma c'è il bambino che è un casinista. No, intanto già è facile qua, non è che mi devo appendere. Già riesco, penso, in pochi passaggi, dai, a fare tutto. Fai, poi te lo dico io, chi sei la bomba, chi sei ci fossi. Ehi, dai, grazie comunque Anto, a dopo, ciao. Hola chico, la. Grazie, Roghi. mi senti? Sì, aspetta un attimo, oh, passaggio, com'è il segnale mio? Il tuo è a bomba, fondo scala, 9 più 60 mi stai arrivando. Quasi 30. 9 più 30? Sì, 9 e 30, bello pieno. Te l'ho detto, quasi 9 e 60 sono. Mi stai arrivando super bomba fondo scala come il segnale di Marco che ce l'ho qua di fronte. Oh, c'ho, mi è sceso le onde stazionarie, ce le ho a 1,5. Vuole regolato lo stub, ma rispetto a prima è sceso parecchio. 1,5 sono accettabili. E se mi metto lo faccio scendere anche a 1 e anche a meno di 1. E io? E sono contento, dai, se sto arrivando lì da te 9 più 30 è buono. Sì, un'altra storia. E avevi ragione, è tutta un'altra storia. Ci ho impiegato una mezz'oretta tra togliere l'altra e praticamente ho attaccato un pezzo di tubo da 2 metri alla ringhiera con 2 staffe, diciamo, dai, con 2 zanche. E poi l'antenna l'ho attaccata a quel palo e quindi è più alta della ringhiera, capito? Prova un attimo. 1, 2, 3, prova radio, 4, 5, 6. Si è aumentato, sì. Vuol dire che già va bene, dai. Poi avrò modo di sentire gli altri da casa, no? Che tipo Claudio mi riceveva a Santiago 9. Capito, in linea d'aria con Claudio siamo vicino, con Spadviero. Vabbè, Marco non fa testo perché siamo uno di fronte all'altro. Gianni Lubrofetta gli arrivavo 9, pieno, insomma, e anche da Luca via l'Italia arrivavo 9. Poi sentivo Tore e mi sentiva Santiago 7 e anche io lo sentivo così un po' più basso perché più lontano, però lo sentivo, lui mi capiva, eccetera. Invece, come si chiama, quello di Sorso, io lo sentivo ma lui non riusciva a sentirmi. Capo, scusa, ma ogni tanto questo qua me ne combina una, cazzo, non è bozzo più, cioè mi ha pigliato il cellulare e me ne ha furato. Ah. E poi ci senti fare tutta la casa, però sono andato nell'altro apparecchio per vedere come arrivarvi, capito? E ho visto la differenza. Ok, non ti preoccupare se il bambino pensa al bambino, ci mancherebbe, capito? Non ti preoccupare, Anto. Insomma, buci in testa. Perché a quell'età vogliono toccare tutto, eccetera, per loro sono tutte novità, capito? Ci vuole pazienza. Cioè, se mi ascolti 9 più 20, vabbè, a fondo scala, cioè, ti puoi immaginare come ha migliorato la ricezione. Esatto, infatti tu mi arrivavi 9, 9,20, capito? Adesso fondo scala, bello pieno, è aumentata. Poi per adesso mi sa che lascio tutto così per oggi. Poi eventuali altre regolazioni me le faccio con calma. Perché mi ha tirato un po' lo stup, ma però già va bene. Esatto, nelle istruzioni c'è scritto per centrare un po' le frequenze, di toccare leggermente lo stilo, quello sotto, di abbassarlo un pochettino o alzarlo, ma leggermente. Sì, sì. Quello lì poi è una mezz'onda, non sta parlando più di una piccolina, sta parlando già di una certa importanza, capito? Aspetta, Anto, adesso abbasso tutto e voglio vedere come ti arrivo senza spingere troppo. Prova. Adesso sono con pochi watt, come ti sto arrivando? 9,20. Caspita, adesso sto uscendo con 4 watt, 9,20 è parecchio dalle tue parti. Io ho detto che è una cagosa. due cose completamente diverse. Stiamo parlando, quella se la metti sul tetto capisci che c'è una bomba, quella è come funziona come una tenda grande, né più né meno. E per adesso spero che no, che non dicano niente quelli del condominio. Adesso piano piano sto entrando, così per non entrare a gamba tesa, meglio con queste che sono più piccole, che questa già è grandicella, perché altra alta 2,70 e lo stilo sotto è un'ottantina di centimetri, però diciamo che si nota poco. Come l'ho messa, poi l'ho messa in filo a un pilastro e il tubo di scolo dell'acqua ed è un po' camuffata, dai, poi è sottile, quindi diciamo che non crea molto disturbo visivo, almeno spero. Poi scendo giù in strada e do un'occhiata a vedere com'è. Dai, tranquillo, quella ci vuole. Vuole quella, io la vuoi a un amico mio, non riuscì a esci manco dai nomi. Qualcosa, come gli ho dato quella, ha cominciato a migliorare il segnale, uscire forte. L'avevo venduta una volta, ma poi ho detto non ne vendo più, perché costano troppo. Cioè me la tengo quella che ho, la boomerang. E infatti me l'ho tenuta. Cazzo, ma lì c'era una bomba, era. E cappa. Sono buone queste antenne, io non le avevo mai usate le boomerang, ci credi? Mai, sempre antenne grandi, insomma sempre sul tetto, capito? Perché avevo lo spazio. Adesso spazio non ne ho e quindi s'arrangia, la sto provando adesso, seguite i vostri consigli, dovrei uscire molto meglio. Guarda, se ce la butti sul tetto qui c'è una bomba. E anche perché sul tetto poi, capito, non so se c'è neanche lo spazio per mettere antenne o meno, capito. E adesso poi in seguito vedrò. Ciao. Sì, se ti devi mettere lì, se metti quella che ci abbiamo noi sul tetto, che ci abbiamo tutto adesso, vai con la bufera. No, cuglio! Dimmi tu, questo è tutto pazzo, Madonna, ma con una frutta da faccia di cose di ammucchina. A disinfettarti, Anto. Donna, ragazzi, me ne combina un giorno. Oh. Gabriele, fai da bravo con Babbo. Ti stavo dicendo, se ti devi mettere un'antenna sul tetto, ti consiglio la cipolla venduta te la. No, ne ho due io da usare sul tetto. Ho quella grande che mi aveva dato Claudio e la Smartec, quella, la J-Pol che è 6 ottavi d'onda, capito, quella è buona, quella è bella, solo che ha molto alta, è più di 6 metri, capito, ha due stili, uno piccolo e uno alto. E quella ce l'ho, e poi ho sempre dell'Assirio, c'ho il dipolo, capito, tutto in alluminio con diciamo i giunti che si sigillano con delle chiusure di plastica, capito, bello, quello lo puoi mettere sia in polarizzazione orizzontale che in verticale, ovviamente lo metterei in verticale perché è quello il segnale giusto, capito, per la 27 e niente, e quindi ne ho due, capito, se avrò un domani la possibilità di mettere sul tetto una di quelle due la metto, insomma, e andavano bene tutte e due, anche quella più piccola che ho, quel dipolo dell'Assirio, era ottima, ho fatto un sacco di collegamenti anche con quella, certo quella di Claudio ancora meglio, però tutto dipenderà dallo spazio che ci sarà, capito? Adesso vediamo poi stasera se entra qualcuno, così farò qualche altro controllino, ma già questi che mi stai dando tu, io a te ti ricevo tutto fondo scala, quindi già la ricezione è ottima. pensa quanti dB ha migliorato, pensa. Prima mi arrivavi 9, quando attaccavi 9 più 20, non di più, capito, adesso vediamo. Poi vedo, insomma, i prossimi controlli, sono curioso, da. Sì, sì. Cosa, vabbè, non fa testo Marco, perché è troppo vicino. Bello! No, quando entra Claudio bisogna chiederglielo. Entra, quando entra Claudio, perché è più lontano. E poi voglio vedere se Sanpei adesso riesce a ricevermi, capito, da Sorso, e vediamo un po'. Io penso easy. Stasera o domani, insomma, quando entra, proverò a sentire. Solo a vedere le onde stazionarie così basse è una meraviglia. È una sangosa, eh. Guarda che può scendere a 1,1, può scendere a 1,1 una bomba. E già li abbasso, sì, sì, quello, lo stilo, o lo sollevo appena appena o lo abbasso appena appena e vedo un po' come scende e se scende di più o di meno, insomma, e vedrò di regolarlo. Vedo un po'. Adesso lascio tutto così. Per oggi ho fatto anche troppo, sono riuscito a togliere l'altra di antenna, mettere il palo e metterci adesso questa. E niente, adesso ritiro tutti i ferri che ho, perché avevo chiavi, forbici, pinze, insomma, adesso ho delle fascette, mi fisso il cavo così non sta ballando con il vento, capito? Lo fisso al tubo, metto due fascette e buonanotte ai suonatori. E poi l'antenna, se la devo diciamo fare scendere per le regolazioni, basta che mollo un po' i due bulloncini e me la porta giù, capito? Tanto ci arrivo con le mani senza bisogno di scala, capito? Perché 2 metri e quindi io già sono anche abbastanza altino e ci arrivo, quindi mollo appena appena, la faccio slittare giù, tiro su il puntale che c'è, un altro pochettino e vedo un po' il ROS, ma lo farò domani o nei prossimi giorni. Per adesso sono troppo contento e lascio tutto così, me la godo così adesso, poi se riesco a migliorare un po' le onde stazionarie, a farle abbassare a 1,1, vediamo un po'. Vai tranquillo, già va bene, già, vai tranquillo, guarda che già scendono, poi quando ci metteci la cipolla, cazzo sai come esce, una bomba esce, quando sarà che potrei mettere l'antenna su. Ne hai 3 di scelte. Esatto, sì, sì, sì, adesso infatti non compro più niente, già ne ho di antenne da mettere sul tetto. Addirittura, adesso che ricordo, dovrei avere anche un dipolo filare, che è quello, se lo metti in orizzontale, capito, è direttivo, se invece lo metti a V invertita, allora diventa omnidirezionale ed è fatto apposta per la 27, capito? E ho anche quello, è dentro una busta, mi sa che l'avevo lasciato, è dentro lo scatolone. Quindi eventualmente, se non vogliono dire perché si vede questa roba lunga, eccetera, mi piazzo il dipolo a V invertita, capito? Che sembrano due fili, due tiranti, capito? E buonanotte, c'ho anche quella di possibilità eventualmente. La verticale è buona, cioè, ma la danno, cioè, ti buoni chissà che fai avanti. Sul tetto, cazzo, sul tetto rende come una grande, sul tetto bomba un bel, ma mi tocco quanto, mica ancora si fa sentire un bel, non si chiama, un profeta, cioè, lo sento tutto Sassari, anche fuori. Esatto, lui esce molto bene, qua arriva lo stesso benissimo, è uno dei più forti che mi arriva di segnale. Prima, diciamo, il segnale più forte è quello di Marco perché ce l'ho di fronte. Poi mi arrivi bene tu, Antonello Pomponio, e capito, e poi Lubrofetta. Adesso poi bisogna vedere quando fare i controlli con gli altri, con Luca, con Gianni, doppio whisky, doppio rum, dai, e vediamo un po' come si comporta questa boomerang. Raga, bici che già botta, fidati di quello che ti sto dicendo, che è una sciagosa. Benissimo, benissimo. Adesso Antò, vado fuori a ritirare tutti gli attrezzi che ho lasciato sparpagliati, e poi ci sentiamo dopo. Dai, metto un po' a posto, porto giù anche l'altra antenna, e così non ce l'ho in mezzo ai piedi qua, perché già l'hai visto, il mio appartamento è piccolino, e così mi faccio un po' di ordine. Ci sentiamo più tardi, grazie mille dei controlli, dei consigli, ce la sentiamo tra una mezz'ora, dai, circa, come metto a posto queste cose. Sono sicuro che anche da altre parti mi avrei migliorato tanto. È un'altra cosa, stiamo parlando di una mezz'onda, mi pare che sia mezz'onda, cioè una cosa molto molto superiore stiamo parlando. Chi dà mi male, cos'è? Neanche un quarto, cos'è, chissà. Sì, mi sa che anche questa è mezz'onda, capito. Sì, ma è un'altra cosa. Io ho voglia, lo sto già notando. E già sono contento, dai. A più tardi allora, grazie di nuovo, Antò. E metto a posto, ciao ciao, un bacio a Gabriele. Ciao, non asciuta più, no, vediamo si trova. Ah, c'è il tamburotto. Avanti su 10. Tutto grigio ricevuto. Qua da questa parte Carlo, buonasera, da tanto tempo che non ci sentivamo. Sì, qui sono da questa parte, da via Principessa Yolanda. Sì, abbiamo un po', a me io per questo momento un po' abbandonato, là, i consigli e altre cose. Tu come stai, Carlo? Bene, bene, da questa parte qua, io in via Prunizzetta Bassa, Santiago 9 mi arrivi, radio 5, ottima radio, il segnale va bene comunque. E io lo stesso avevo staccato per un annetto, per vari problemi di famiglia, eccetera. E ho riattaccato 3 mesi fa e adesso non ho la possibilità di piazzare l'antenna sul tetto e sto modulando con un'antenna da balcone, una boomerang 27A della Sirio, ma dovrebbe andare bene questa, almeno per le comunicazioni, così città, capito, e qualche paesino vicino. Si conferma, io sto modulando con un portatilino dal poggiolo di casa, quindi evidentemente c'è propagazione questa sera. Mi ricordi il tuo nominativo? Carlo da questa parte, Carlo. Prima trasmettevo un pochettino da una zona più alta, ero verso via Luna e Sole Alta, adesso sono sceso, proprio sono via Prunizzetta, angolo via Luna e Sole, capito? E quindi diciamo in linea d'aria siamo anche abbastanza vicini, dai. Sì, è vero, però diciamo io qua modulo dal poggiolo che è al secondo piano, io sono praticamente circondato da palazzi. E quindi evidentemente comunque sì, siamo lì vicini, ma probabilmente c'è anche un po' di propagazione. Che altro senti normalmente? E guarda, noi la sera dalle 18 in poi siamo qua sul canale 10, Nicola, e c'è Gianni doppio room, c'è, sta entrando anche Claudio Sparviero, e lui è radioamatore però entra a salutarci ogni tanto, anche Roberto Quadrato, anche lui radioamatore entra, poi c'è Antonio da Latte Dolce, c'è Luca da Viale Italia in fondo che ha ripreso da poco, era un vecchio CP, adesso ha ripreso da qualche mese, e poi ci sono i soliti amici, Gianni Lubrofetta che trasmette dalla zona stazione, capito? E un po' qua, un po' là, poi c'è Emanuele, insomma qualcuno ancora è rimasto, e solitamente la domenica c'è meno affluenza perché magari si dedica un po' alla famiglia eccetera. Durante la settimana siamo sempre qua sul 10, Nicola. Eccomi qua. Ciao Lupo Grigio, buonasera. Buonasera, buonasera, come va, Carlo? Bene, Antonio da questa parte. Bene, Antonio, io come dicevo a Carlo, avevo un po' abbandonato la frequenza, per vari problemi, eccetera, ma adesso ho finito almeno una mezz'oretta per salutare i capricci e voglio andare. Non ti ho sentito perché stiamo coperto niente da fuori, non sei molto alto di segnale, non so come mi senti tu a me. Lui trasmette da Latte Dolce, quindi ti arriva bene anche da quelle parti. Prenditi, come ho fatto io, anche io sono al secondo piano, una boomerang, te la piazzi sulla ringhiera e andrai decisamente meglio. Sì, io comunque ogni tanto ho l'antenna ventolare, la metto giusto la campagna, ombre, sarà discorso, vado molto meglio. E volevo dire, ma voi avete mai sentito un certo Aquila Reale? E adesso non mi viene in mente questo nominativo, Nico. Non mi viene in mente, forse Antonio, vediamo un po', può darsi di sì, forse da ottava se non sbaglio. Cari, e chi è? Mi è entrato Claudio. No, negativo, purtroppo è contenuto di tanta maniera. Chi è che sta parlando? È Lupo Grigio, è qua. Nicola Lupo Grigio, vecchio Lupo Grigio. Capito, guarda, è entrato Claudio che ti saluta, vedi un po' se lo senti. Claudio, qui Lupo Grigio, Nicola, ti senti? Molto, molto basso Nicola, ciao, buonasera. Tu sei il vecchio Nicola, Lupo Grigio, quello che andava a modulare sul tetto col portatile, tu sì. Mi conferma, sono sempre io, sono sempre io, adesso sto modulando da solo tanto. Ancora in queste condizioni, sì, mamma mia come sto, dopo andiamo e andiamo, va bene, buonasera a tutti, dai, sono entrato per un salutino. Volevo accendere la caldaia, io sono qua comunque. Carlo, ma stai andando con che antenna tu? Ho piazzato la boomerang, sto uscendo con 4 watt adesso, come ti sto arrivando Claudio? Per vedere, adesso mi sei 5 modulati 6, potrebbe essere un bel segnale, bisogna vedere quando usi potenza alta, vedere se il segnale è aumentato. Guarda, adesso è al massimo, e vedi un po' com'è questo passaggio di segnale. Già va meglio, ma lasciala al massimo, perché lo usi al minimo, lasciala al massimo, sei quasi 9. Ha migliorato tantissimo la grande. Sì, anche come ricezione, ti ricevo anche a te a bomba qua, mi sta rimbombando tutta la radio quando parli. E niente, qua mi sta arrivando fondo scala, Vabbè, non siamo molto distanti noi, anche se non ti vedo, però siamo vicini, ok, no, hai migliorato tantissimo, dai, va bene, alla grande, lascia tutto così, riprendi Antonio, mi allontano, accendo la caldaia e poi riprendo, ok ragazzi. Ehi Claudio, dai, fai, no, qua a casa mi arrivano per 30, quando c'è tutti i fatti aperti. scappa, vai tranquillo, avanti Carlo. E niente, adesso sto uscendo con la massima mia, che sono una trentina qua in AM, e dovrei arrivare più forte anche al Lupo Grigio. Mi confermi, Nicola? Sì, ti conferma, dopo una bomba. Bene, perché l'ho piazzata stasera, prima avevo un altro antennino e adesso ho messo questa e va decisamente meglio, così anche Claudio mi sente meglio e niente, dovrei sentire tutti gli altri anche meglio come radio e come segnale. Vai Antonio. Cappa, è già un grido via. Io già ho la penna grande, quindi se non sento l'omega ti dirà un po' tutto. Vediamo dopo se entrano anche gli altri, dai, se entra Gianni, che Gianni è nella zona più bassa, zona via Baldetta, quella zona lì. Però a Gianni gli arrivavo 9 prima, ma adesso dovrei arrivargli anche meglio. Sicuramente sì, io a me arrivi molto forte, arrivi fortissimo. Vabbè, forse più favorevole, non lo so. E adesso lascio tutto così, la provo questa settimana, così avrò poi la possibilità eventualmente o di sollevarla un pochettino, di abbassarla, di spostarla anche, finché poi trovo la quadra, dai. Però per adesso ho un ottimo anche SVR, dai, le onde stazionarie mi si sono abbassate rispetto all'altra antenna, adesso ho 1,5 ed è accettabile, però dovrei riuscire ad abbassarle ritoccando un po' la punta, la devo fare uscire un pochettino di più. Prova, già va bene, io già qua sono regolarissimo con le stazionarie, una bomba, anche io utilizzo Sirio come antenna, la GPE e poi guarda la Midland, solo che la GPE in punta c'ha quel coso per le elettrostatiche. La cosa è uguale l'antenna. Scusate se intervengo, mi sono arrivati ospiti, devo chiudere, ci sentiamo alla prossima. Bene Nicola, ci risentiamo, buona serata, buon tutto, buona domenica e fatti risentire. Vai Antonio per i saluti a Nicola. Ciao Nicola, ciao, spero che mi senti bene in quella zona. Ci risentiamo nel prossimo, ciao ciao. Grazie. E tu sei più avvantaggiato di me, lo vuoi sentire meglio? Sì, qua mi stava arrivando 9 con qualche picchetto in più, capito? Ma in linea d'aria siamo abbastanza vicini, capito? E lui mi ha detto che via Le Mameli, via Principessa Yolanda, insomma, in linea d'aria sono vicino comunque. Ma hanno purissima antenna come ci deve. E infatti dai, adesso per adesso oggi sono andato bene, dai, l'ho azzeccata la prima e per adesso lascio tutto così. Ho sistemato prima con le fascette il cavo, così non sta ballerino col vento, e adesso vediamo come saranno anche i prossimi controlli e vediamo un po' i prossimi giorni, se qualche giorno c'è propagazione, vedo un po'. Sì, tra un po' dovrebbe entrare Gianni, almeno vediamo un po' come si evolve la situazione. Eia, Anto, faccio un attimo di bianco perché siccome sono uscito dalla doccia e quindi mi metto, sono in magliettina e mi metto qualcosa addosso. Vai tranquillo, va, tra poi, tra Gianni intanto. Eia, già sono qua in ascolto, dai, faccio un attimo di bianco, mi sistemo un attimo e poi sono di nuovo qua. Ok, va bene. E Bada! Ciao Antonio! Buonasera! Tutto bene? bene, sto bene. Poco fa c'era Carlo, adesso ha fatto fare delle cosette e poi rientra perché ha messo un'antenna un po' più performante. Allora dovrebbe arrivare anche meglio. Dove sì. Ok. Io sembra se sono già arrivato. Ciao, vedi. Prova. 1, 2, 3, prova di modulazione. Guarda un po'. Dove ne è più in oggi? E cos'è uno più? Smitta non c'è più, è a fondo scala. Ah, capito. Vediamo se Carlo è in azione, in ascolto. Carlo, ci sì. Ciao Tonino, qua mi stai arrivando, 9 pieno, radio Super 5, la radio è bella, bella, chiara e limpida. Vabbè, rimane un po' amplificata. Sì, sì. E io, il segnale mio è migliorato rispetto agli altri giorni. Tu sei 9,20, radio 5 è perfetta. E cavolo. Allora già sta andando bene. Ho messo una boomerang, capito? Ho tolto l'altra che era un po' sordina come antenna e corta a corta, quindi ho messo una boomerang stasera, mi sono appentato, in mezz'ora avevo preparato tutto da prima, quindi ho tolto la vecchia, ho messo un palo, l'ho fissato alla ringhiera con delle zanche, capito, e stretto, e poi sulla punta un palo di 2 metri, e, capito, ci ho messo la boomerang, così l'ho sollevata un pochettino. Mi auguro, comunque ci abbia sentito, mi auguro che le sia detto bene, perché il vento che ha tirato tempo fa, io ho una bella pedana, bella pesante, me l'ha buttata a terra, che era appoggiata, inclinata, per carità, pensa di dove no, iubi. E va bene, dai, comunque l'importante, adesso ti sei sistemata di mie che meglio. Avanti Antonio. Che cappa, qua va fortissimo lo stesso. Ha migliorato di un bel. Anche la radio però mi dà un coso che mi la sento migliore. La sento. E vabbè, se mo va a vedere un roccio di Coburg minoretto e di un'antenna che già non c'è tempo tanta perché è alta più di 2 metri. Quindi va meglio. Vabbè, tu qua sei vicino per me, anche se sei vicino, quindi mi arrivi forte con lo scala. Vabbè, io sono San Capito, quindi io gli all'aria, sì, io vedo anche il forte ripetitore, vedo, penso un po', che c'è solo Budibuzzi, e gli all'aria, poi siamo molto distanti, andrà bene. E allora, adesso sei in ferie, sì Carlo? Yes, sono in ferie a partire da oggi sino al 12, capito? Quindi una mattina ci organizziamo, una di queste mattine, tanto di sera già entro adesso che sono libero, eccetera. Ma io solitamente a volte anche la mattina che mi guardo un po' le notizie al computer e quindi sulla scrivania al computer, la radio, quindi molte volte accendo, anche se la mattina diciamo entrano in pochi, però ogni tanto qualcuno si fa sentire anche la mattina. Poco fa è entrato Lupo Grigio, Nicola, ero da almeno un anno e mezzo che non lo sentivo, e stava modulando con un portatile dal terrazzino, l'ha sentito anche Antonio. Il Lupo Grigio modulava da via Bardetta, se non vado errato. Adesso modulava quella zona, quelle mameli, quella zona lì, capito? Io mi ricordo che modulava la mia bardetta con Lupo Grigio. Magari prima. Nicola si chiama. Quando, diciamo, lo sentivo io un anno e mezzo fa, era sempre in questa zona qua, capito? Via, adesso non ricordo se in via Le Mameli o in via Principessa Yolanda, comunque vicino qua, io lo sentivo bene. Io mi ricordo tantissimo tempo fa, sul pomeriggio, che me lo potrà quella zona. Vabbè. No, io la mattina purtroppo, ormai è lunedì, mi faccio molto presto, guarda che io manco ne accento perché devo andare a lavorare, capito? Troppo adesso anche i muratori hanno finito, io troppo che devo infilare e finire di più. sabato sono incasinato, l'avvocato mi vuole di nuovo attesi, ho sistemato la luce del bagno, e c'è apparato i lavoretti, e tutta la tapparella, e che cavolo. Noia, e tutto, andiamo a pagare, che roba ci capite la pezza, l'avvocato, dici c'è la scala lunga, no, io non te la scala non faccio, la capiti, forse prima, quando ero più giovane, adesso non mi fido più, io qua, con me metto tutto il mantello, il ponteggio, oppure mi la maschera in alluminio, quella è buona, come dico io, se no se la compareggia, e se no se lo fa fare, capita, se la muove non mi alza, no, non ce la faccio, lascia perdere, che poi ho curato la schiena come sono, bah. E infatti a un certo punto bisogna un po' mollare l'osso, dai, fare solo quello che è possibile senza sforzare, eccetera. E non bisogna mai esagerare, dai, e una volta che passi 60 è così, anche io prima facevo tante cose, facevo più attività, anche sport, eccetera, adesso niente, qualche passeggiata in bicicletta, ma primavera, d'estate, la mattina presto, quando prima che inizi il caldo, capito, però la bicicletta con la pedalata assistita e niente, poi qualche volta mi faccio qualche bella passeggiata, esco a piedi, a volte me ne vado anche, me ne scendo giù a Platamona, capito, primavera quando è bel tempo, capito, mi faccio passeggiate, eccetera. E poi lavori e lavoretti, quando mi chiedono qualche cortesia, se è fattibile, senza grandi sforzi già lo faccio volentieri, altrimenti dico, rivolgetevi ai professionisti, Tony, bisogna riguardarsi, vai. Ah, quanti anni c'hai, suo capo? Io ne ho fatto appena 62, li ho fatti a gennaio, ai primi, capito? Io come inizia l'anno li compio. Vabbè, io a settembre ne ho 10 più di te. E appunto, e quindi ancora di più ti devi riguardare, molla l'osso, goditi il tuo tempo libero, la vita, i tuoi hobby e niente, è secondo me la cosa migliore. Ah, c'è un impianto elettrico, io me la sento ancora, grazie a Dio, non ho problemi, sto rifiutando lavori idrici, da giorni sono andato perché è un amico, perché sennò non ci sarei andato, la verità. L'ho fatto la signora che conosco, l'anziana, conosco anche la figlia, l'ho fatto l'autoclave, l'ho comprata nuova perché la sua era bruciata e ci vuole più per aggiustare anche comprare una nuova, fare la comprata nuova, era tutto collegato e a posto. Ma è un lavoro che puoi fare, non ti devi né inchinare né niente, capito? È tutto un lavoro che però è anche il prestoso, è un control, che è molto più meglio della prova sfera, quindi. Vabbè, purtroppo io volevo. Roberto, a inchinarmi, ho avuto dei problemi alla schiena, capito, sono operato, quindi ho anche delle viti, dei tiranti, la gabbietta di titanio, un sacco di roba, quindi me la sento di fare tutto, ma tranne che inchinarmi, a me l'idrico polone che mi è mai piaciuto, guarda la verità, Carlo, l'elettrico mi piace troppo, quindi anda bene bene, Antonio, riprendi. Capo, pure a me piacciono molto i lavori dell'elettricista. Volevo fare anche un corso di aggiornamento e corso, ma so che non ci sono e forse devi andare una vita a lavorare in piante elettrici, perché pure a me piace molto fare queste cose, infatti nella ditta dove lavoro io i quadri elettrici e le cose li faccio io quasi sempre, passo la massa, collego i cavi e tutto. E mi piace, vorrei prendere un'abilitazione, vorrei prendere, perché mi piace molto. Guarda, io conosco Lorenzo, che non dico il cognome comunque, che lo conosco ormai 20 anni, e non fatto che mi chiama e mi ringrazia, perché non ho imparato alcuni passaggi di elettrico, ma è vero che mi ha chiamato anche da poco. Ascolta, signor Torino, mi dice, siccome qua c'è altro dato e mi devo caricare il telefono, come devo fare? Ascolta, non ci vuole molto. Abbassi il contatore, sviti sotto, prendi una fase soltanto, è neutro, e ottieni 220. Ricordo che l'altro dato c'ha tre fasi, è un neutro, 20. Grazie, signor Torino, grazie, è contento. Niente, poi domani i simulatori hanno finito, io mi devo piazzare un temporizzatore. Il temporizzatore tu lo trovi nelle scale, ma io lo metto dentro a casa sua, così nessuno lo tocca. temporizzatori tu lo puoi programmare a 1 o 2 minuti, lui lega la sua, schiaccia il pulsante, accende la luce a scale, scende le scale, va via e si spegne da solo, se lo programmi un minuto, come se è piaciuto ai ragazzi, lo faccio, il corso di geometrico, la buona provincia ne ho fatto parecchi e quindi mi è giocato parecchio, perché ripeto, io ho anche fatto il tiro per la scala aerea, fatto il conto, però oggi che oggi non me ne frega niente, capito? Oggi faccio gli impianti elettrici e mi basta con un lì. È un lavoro che si guadagna, così posso dire, tra idraulico e l'elettricista non c'è. Tutto qua, andrà bene. Carlo, riprendi. Vai Gianni, aspetta un attimino, Tony, che sta entrando Gianni. Spero che mi avete troppo rumo. Avanti, ciao Gianni. Ciao, buonasera. Sei andato forte, adesso è arrivato Torino. Buonasera a tutti. Non ho capito già, se n'è andato? Falcone, adesso ci pensa Torino a parlare come lui. Vabbè, sono fatto più da meno, dai, fatto per scaldarci un pochettino che c'è fretta. No, sto scherzando, però ho fatto un break da poco fa, no, non mi avete sentito forse. Carlo, va! Ehi a Gianni, 9 più 40, Radio Super 5 qua, guarda il mio segnale se ha migliorato. Prova! 1, 2, 3, prova radio 4, 5, 6. E c'è 9, 20 qua, è arrivato più forte prima da me. Ehi, va bene, adesso ho messo l'antenna diversa, ho messo la boomerang, è meglio di quella che avevo. Comunque già va benissimo, vai, ti ascolto bene. L'altra mi sa che arrivavi 9.30, se non mi ricordo male. No, di meno ti arrivavo, 9.20, capito, 9.20, con questa arrivo un po' più forte. Ma magari dipende dalla zona, capito? Dipende un po' dalla zona. Va bene, comunque quello che mi soddisfa è che ho abbassato le stazionarie, adesso ho 1.2 e 1.5 a secondo di... Poi i prossimi giorni vedo di farlo scendere un altro pochettino abbassando il puntale e così le onde stazionarie le eliminiamo quasi del tutto. Le eravamo a 9.30 prima, capisci? Ormai sta arrivando più basso, non ho capito. Magari dipende dalla zona, sì, ma comunque è sempre bello, il segnale è sempre forte, dai. Scappa. Penso che la bombera, quel radialino che c'è in basso, funge da direttiva, è vero? Adesso poi vediamo. Comunque Gianni, adesso io ti sento sempre bene come prima, ma il segnale adesso è fondo scala, capito? Io c'ho 9, poi c'ho 9.20, 9.40, 9.60 decibel e tu arrivi a 9.60 decibel. Vabbè. Prova. Quindi va bene, quindi come ricezione ti ricevo meglio di segnale, quindi vuol dire che l'antenna già sta lavorando bene questa. Quanto c'ha di stazionare, Carlo? Allora, in questo canale 1.3, 1.4. Se riesci a abbassare un po' di più è meglio, eh. Io, vabbè, c'ho 1.1 di stazionare in questo canale qua, 1.1. Ma vabbè, se attacco è 1.3. Esatto, io lo stesso, se abbasso un pochettino mi si abbassano anche a me le onde stazionarie. Adesso sono con 30, capito? Se lo abbasso a 4, 5 watt allora scende lui a 1 e 2, capito? Però oggi a primo colpo diciamo l'ho azzeccata. Adesso i prossimi giorni farò qualche altra piccola regolazione e poi come trovo la quadra che levo, elimino ancora di più le stazionarie, lascio tutto così. Le provate in lontananza? Ho parlato con Claudio e lui mi ha detto che va molto meglio, capito? Claudio il più lontano da qua e mi ha detto che ha migliorato parecchio, anche Antonio mi sente molto più forte di segnale, meglio come radio e adesso vediamo come va un po' con tutti, dai. Ecco, c'è 9.20, 22, dai, forse 9.22. Ma non mi ricordo se prima era 9.20 oppure se era 9.30, non me lo ricordo. A me arrivava 9.10, adesso arriva 9.20. Sì, Gianni, tu qualche volta mi hai dato il controllo, ero 9.20, non di più però, capito, 9.10 con picchi positivi, eccetera, come aumentavo, e quindi già è migliorata anche per me, capito, adesso vediamo, dai, già sono contento, comunque ho abbassato notevolmente le stazionarie, avevo due prima, 2-1, capito, a secondo del canale, è quello che mi preoccupava, almeno adesso sono con parametri accettabili, dai. Infatti, certo, e le stazionarie sono pericolose perché possono far bruciare i, così, ma, i finali. Bruce veloce, Gianni, bello. Cosa è qua? Sì, un bel veloce, lascia bianco, qua è passato da 7 a 9, non sono comparazioni quelle che fate, a 200 metri uno dall'alto. Se lui è sopra, dove c'è il viadotto, tu sei sotto, cosa volete fare? Io non lo vedo a lui, è passato da 7 a 9, segnale che più o meno arriva molta gente con l'antenna grande. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Claudio, ciao. No, ma anche qua ha migliorato, se adesso non mi ricordo quanto ridavo il segnale, ma lui mi ha detto che ridavo 9.10, 9.15, adesso è 9.22, quasi 9.25, dai. Anche come ricezione ha dato il segnale più alto anche a me, quindi, ma io l'ho visto qua, ho detto metti la potenza minima e la potenza massima, io ho tutto scritto, quindi non con la potenza minima era 5, con la potenza massima era 7, adesso invece con la potenza minima è 7 e la potenza massima è 9, quindi ha migliorato un incremento elevatissimo per essere una boomerang, capito? Ok, avanti elettricista pazzo. Elettricista pazzo. Come hai sentito? Avanti Antonio. Ciao Bori. Ciao. Ah, forse più piccolino sono io adesso, va. No, già lo so già, perché pure io ce l'ho avuta la boomerang e l'ho data una persona, cioè una che ne avevo l'avevo data, poi ha detto ma non mi vendo più perché costa troppo e cosa, ma me la tengo, boh, finito, ma lì non si muove, se capita che succeda qualcosa magari me ce l'ho come di scorta. Tutta campanata gorda, la boomerang, anche un'antenna abbastanza grandetta, soprattutto quella grande, quella che fa la Siria è ancora più manna, immagina già di due, e cambia un bel ragione. Se la metti sul tetto che se c'è la bomba esce. Allora, come l'hai piazzata? L'hai allontanata dal muro con qualche staffa? Sì, ho fissato un palo da 2 metri alla ringhiera e poi l'ho messa in punta del palo di 2 metri, quindi è più in alto della ringhiera, capito? Dovrebbe, capito, andare meglio, capito? È lontana, sì, dal muro l'ho allontanata un 50 centimetri. Ma io male non ti ho mai sentito, attenti, ho sempre sentito bene, da quando sei entrato il segnale è stato sempre buono, con una maniera o nell'altra ti ho sempre sentito bene. Va bene, dai, tu ripeti. Capano, io già, sicuro ti ripeto, la conosco molto bene con l'antenna, ce l'ho avuta anche sul tetto io, e pompava. L'antenna che pompava, rendeva parecchio. E comunque già c'è la differenza, è meglio di chi su un roccio di Coburu, 100.000 volte meglio. Ma io già non credo, comunque il segnale l'ho mandato a Claudio, magari arrivavo a sedere qui, no, già la dice lunga, Claudio è lontano da qua, capito, è più in alto, è molto più in alto, e che arrivo a 9, già va bene, vuol dire che almeno diciamo riesco ad uscire a fare quattro chiacchiere, insomma, molto meglio. In questi ultimi giorni vedo un po' se riesco a sistemarla un pochettino meglio, come diciamo onde stazionarie, vediamo se la porto almeno a uno e uno e uno, insomma, quelli lì, ma ci sono quasi vicino, quindi devo tirare o abbassare un po' sul lo stilo, quello della punta, c'è una chiavetta esagonale e quindi lo mollo appena, l'abbasso un attimo e vedo un po', prima lo abbasso, se abbassano le onde stazionarie lo lascio fermo, se no lo abbasso ancora di più e vediamo il riscontro, ma lo farò nei prossimi giorni, sempre che non piova, perché mi sa che ha messo di nuovo brutto tempo. Oggi c'è stata la finestra dopo pranzo, c'era un bel sole, mi sono messo fuori, ho anche sudato, ma in mezz'ora ho fatto il cambio senza nessun problema. Se non va nel razzo, la bufera, per regolare stazionare, non c'è quel radarino in basso che c'ha una specie di vitina che allunghi lo stilo piccolino e lo rientri, è così, mi conferma, se ricordo bene. Sì, questa che ho io la devi tarare dallo stilo quello più alto, capito? Devi abbassare o alzare lo stilo. E poi se devi fare una regolazione più fine, allora devi muovere leggermente anche quello in basso, così c'è scritto nelle istruzioni, ma poca roba, di pochi gradi, capito? Adesso l'ho messo a 140, come diceva, con un angolo di 140, come dicevano le istruzioni, e poi vediamo dai prossimi giorni, già è facile da maneggiare questa antenna, non è complicata, quindi abbastanza semplice, però come primo tentativo già va bene. Ecco, più là con la gente più o meno te lo porti a 1,1 anziché 1,3, capito? Tutto qua. E allora, cambio, che fai di bello? Tu la mattadoni mi oggi c'è la caldaia, sta già riuscendo a fare caldo. Oh Carlo, ma poi dimmi una curiosità, ma in quel tubo la devi mettere attaccata alla ringhiera? Ma perché non ci infili la Smart Tech che lavora per terra con l'antenna? L'antenna lavora per terra, io ce l'ho per i 10 metri a 1,50 m dal piano del giardino, 1,50 m, zero di stazionarie, resa da paura, e c'è una 7/8 che, ma non capisco che problema hai a metterla lì, non hai radiali, non ha niente, non è ingombrante, perché non piazzi quella? Perché non so se diciamo se trovo il sistema, può darsi pure che ce la metto. Adesso ho voluto provare questa boomerang, poi Dio mai non voglia, già ce l'ho giù in garage smontata come me l'avevi data tu. Quando l'ho smontata l'ho fatta uguale, quindi è in tre parti, e quindi la devo solo riassemblare e ripiazzare. Se dovesse funzionare bene attaccata alla ringhiera, certo, perché no, tanto che ce ne sia una da 2,75, questa è 2,75 di altezza, diciamo il radiale superiore, quello di giù è un altro metro e quindi sono quasi 4 metri, quella è circa 6 metri, quindi 2 metri in più, mi sale ancora di più, dovrebbe trasmettere meglio. Non lo so, se non è molto da impatto visivo, la metterò pure. E adesso mi hai dato un'idea e vediamo un po' cosa ne esce fuori, clap il microfono. Non è un'idea, devi smettere quella, perché non ha nessun fastidio quella lì, non ha radiali, non ha niente, cosa pensi che ingombri più della boomerang? Solo il lato praticamente leggermente più largo, ma anziché girarla verso dentro all'interno del terrazzino, il lato largo lo metti fuori e tiri su. Sì, sì, dottor Vallotti, mica non pesa nulla quell'antenna, non pesa niente. Dal tubo che tu hai messo, si è montato bene col tubo attaccato alla ringhiera con i cavallotti, come ho fatto io Claudio, ho fatto bene, ok? Li sfili dei cavallotti della bufera e ci infili i cavallotti di quella e tiri su, lavora bene, mica è come che ce l'hai nel tetto, a me non cambia niente, non cambia solo, quell'antenna è nata per lavorare a terra, per lavorare 50 cm